известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. 重要贡献的剑桥校友, 李约瑟博士. Cambridge, no, la conferenza di Wen Jiabao. Fischia un ragazzo. E questa è la scarpa. E questi sono quelli che se lo portano via con l'applauso. Allora, vediamo un po' di ricostruire i fatti. Il ragazzo ha detto: come potete ascoltare le menzogne che racconta questo dittatore, perché non lo contraddite? Il tutto detto in cinese. Alzatevi e protestate, ha aggiunto, dopo che si era annunciato col suono di quel fischietto che avete sentito. Il pubblico compatto gli ha detto: ma vergognati, ma vai a quel paese. Erano in realtà quasi tutti studenti cinesi, sia il 27enne provocatore, diciamo così, che i presenti in sala a questa conferenza del primo ministro cinese Wen Jiabao, che imperturbabile, dopo aver incassato la scarpa tiratagli dallo studente e caduta a un metro da lui e non inquadrata dalla televisione di Stato cinese, la CCTV, che stava facendo in quel momento le riprese, ha detto: questo spregevole comportamento non avrà nessuna conseguenza sull'amicizia tra Cina e Regno Unito, ha detto in un certo senso scherzando, no? Scherzando la modesta aggressione, ma significativa aggressione, di cui era stato fatto oggetto. Poi ha detto anche, ha formulato anche un appello, no? Dicendo a studenti e insegnanti: non seguite l'esempio di questo comportamento riprovevole, non seguite questo comportamento riprovevole. È un nuovo incidente di quella che ormai possiamo ufficialmente definire la politica delle scarpate. Pensate se solo 3 mesi fa ci avessero detto che i 2 uomini più potenti del pianeta, di lì a poco, entrambi sarebbero stati presi pubblicamente a scarpate davanti alle telecamere, restando imperturbabili, senza peraltro, sembrerebbe, conseguenze drammatiche per i lanciatori, ovvero il giovane cinese in questione e Muntadhar al-Zaidi, che è un eroe ormai arabo in alcuni paesi arabi, dopo aver tirato un'altra scarpa a George W. Bush. Pensate se ci avessero detto una cosa del genere, avremmo riso, avremmo pensato a uno scherzo, ma io dico, ma insomma, quale scherzo? La logica della protesta, insomma, dopo decenni di martiri, di martiri, insomma, sembra aver imboccato proprio la strada del demenziale, della farsa, della pochade. E guardate che l'epidemia, a parer mio, è dietro l'angolo: una scarpa, un'altra scarpa, secondo me poi un diluvio di scarpe. Bisognerebbe prendere posizione, ma intanto però andiamo a vedere come in Cina la storia si è un po' diffusa, perché comunque il famoso imbarazzo, no, che in certi casi viene issato anche come uno stato mentale, in questi casi, in questo caso, come non mai, potrebbe avere ragione di esistere. E lo chiediamo a un esperto in materia, anzi all'esperto che più spesso consultiamo a riguardo, cioè al nostro amico Saro Capozzoli. Ciao Saro, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Insomma, l'hai sentita la storia della scarpa che abbiamo adesso raccontato con diffusi particolari. Prima un tuo giudizio, ma poi soprattutto un giudizio sulla base della tua esperienza su come verrà accolta, diciamo, in superficie, però anche in profondità, laddove magari c'è meno ufficialità. Che dici? Ma in Cina di questo argomento non se ne è parlato, cioè questa notizia non è passata attraverso la stampa locale, cioè io non ho visto nessuna. Dicono che al telegiornale l'hanno molto rapidamente, l'hanno accennato così, sarà proprio fuggito, ma come esatto, qualcosa di una curiosità. Ecco, io sinceramente non l'ho vista, ma ho sentito anche altre persone che stanno più tempo davanti al televisore rispetto a quello che passo io, e mi hanno detto che non, i miei dipendenti non ne sapevano nulla. nulla. Ecco, almeno la, se i miei dipendenti invece, quelli italiani, l'hanno saputo perché si sono collegati con Repubblica, con certo, il Corriere, eccetera, l'hanno visto, no? L'altra cosa, certamente, ecco, non è. Però insomma, della scarpata a Bush se ne era parlato assai, invece, no? Beh, certo, non è un grande amicone Bush, no? Beh, certamente, visto come sono atti, diciamo, offensivi, no? Ecco, ovviamente chi doveva ricevere la scarpa ha avuto un po' una presa di spirito e l'ha presa sul ridere, però certamente non era contento, ecco, di questa cosa. Adesso io non entro nel merito della cosa, perché effettivamente non è un paese democratico, la CIA non ha mai detto che è un paese democratico, e di queste cose in giro per il mondo se ne può aspettare, ecco. È un discorso su cui si potrebbe discutere per molto tempo, ecco. E certamente non esiste un dissenso in questo senso in Cina, ecco, non si può andare impensabile poter dire qualcosa di contrario al governo di fronte al presidente, di fronte alle autorità, ecco, non sono cose previste, ecco. Quindi i cinesi ovviamente su queste cose glissano, poi il silenzio poi fa, più se ne parla più resta nella memoria collettiva, no? E quindi se non se ne parla, se ne parla velocemente, poi la gente dimentica normalmente. Un ascoltatore, Saro, ci scrive che, visto l'andazzo al prossimo G8, probabilmente si tratta di Sardegna, i giornalisti verranno ammessi scalzi, insomma. Scalzi o comunque spero che lancino scarpe italiane, no? Così almeno ci facciamo certo, pubblicità, no? Perché mi sembra che la casa che ha prodotto la scarpa che doveva colpire Bush, sì, è andata molto bene, ha fatto grandi affari, no? una società turca. Oggi di Cina si parla sui giornali italiani, al di là di questo fatto che comunque rientra nelle cronache, anche se, come dicevamo in apertura, poi comunque ha dei risvolti, la ripetizione, l'imitazione, insomma, nel contemporaneo, nella modernità, dove può diventare facilmente un'epidemia, è un fattore sempre da tenere d'occhio. Ma comunque c'è anche un altro articolo che ha inquietato parecchi ascoltatori, per esempio di Jefferson, ed è quello che Federico Rampini ha pubblicato su Repubblica, sul numero di oggi di Repubblica, dove viene presentata a tinte direi piuttosto fosche la questione della disoccupazione, del dato di disoccupazione in Cina. Qui si parla di 20 milioni, però limitatamente a 27 milioni, limitatamente al comparto rurale, che avrebbe allarmato a un punto tale il potere centrale di Pechino da attivare, seppure per ora sotto silenzio, diciamo così, una mobilitazione, una prontezza alla reazione di quelle da occasioni eccezionali, rafforzando, come abbiamo parlato in occasione della tua ultima visita qui in studio, Saro, questa immagine, come dire, di una Cina a tre cilindri, che zoppica, ormai in difficoltà, con il fiato corto. Che ne dici? Ma io vorrei sapere, i giornalisti italiani, dove vivono? Se vivono veramente in Cina o sono in giro per il mondo e poi prendono notizie di agenzia per poi dopo rilanciarle, ecco, perché... Cos'è che non ti piace in questa versione? Non mi piace perché sui 300-400 milioni di migranti che vanno in giro avanti e indietro ogni anno dalle campagne, alle città, eccetera, un 20 milioni certamente sono un grande numero, non sono un piccolo numero, sono un grande numero, ma non vedo assolutamente in giro per la Cina, io giriamo parecchio, tutti in mio personale, eccetera, atti di morti di rivoluzione, proteste, eccetera. C'è un malessere diffuso. Il governo cinese ha fatto delle grandi operazioni finanziarie per poter coprire con finanziamenti, con fondi, nuovi investimenti, eccetera, quindi ci sarà una ripresa. Di questi migrants sono andati a casa con una specie di liquidazione da parte dei datori di lavoro, e hanno, da quello che abbiamo capito, cioè abbiamo cercato anche di capire anche oggi, hanno avuto delle promesse a livello locale di essere impiegati a livello locale, no? Ecco, perché rientrano certamente, ma non rientrano nei propri paesi. Senti, Sara, ma allora, per concludere, prova sulla base della tua esperienza a fare per un momento l'avvocato del diavolo, perché sembrerebbe che un trend che sta prendendo un certo piede nell'informazione, almeno italiana, è quella del nervosismo cinese, sì, la Cina come paese innervosito e preoccupato. Dai una spiegazione a questo. È uno spot italiano, perché se si aprono i giornali, l'Herald Tribune, sul Financial Times che online, ci sono proprio siti che parlano inglese, sì, si parla di questo, ma si parlano anche dell'altra faccia della medaglia. Noi siamo abituati a far vedere, perché c'è interesse a creare malumore, timore, non so cosa ci sia dietro questo, no? Perché forse probabilmente si legge di più il giornale, però se noi vediamo sul Financial Times questi ultimi due giorni, si va sul sito, ci sono articoli che parlano di questo, ma parlano anche degli aspetti positivi di cosa sta succedendo in Cina. Il cambiamento dell'attenzione del governo verso il mercato interno, sviluppo del mercato interno, quindi le aziende che si stanno che erano export orienti adesso andranno a produrre più per la parte per il mercato interno. Quindi ci sono, e la Cina è capace, e chi sta lì vive veramente in Cina è abituato a dei cambiamenti proprio repentini, proprio si cambiano strategie industriali e commerciali in poco tempo. Questo non sarà mai stato possibile, non sarebbe mai stato possibile in Europa. Io voglio dire che raramente ti ho sentito così accalorato, e mi fa piacere che come dire, dedichi questa passione anche a parlare con i nostri ascoltatori. Era Saro Capozzoli, abbiamo parlato dello strano caso della seconda scarpa contro un pezzo da 90 della politica mondiale, e poi di questo articolo di Rampini e di tutte le discordanze che può raccogliere. Close Your Eyes, ci è venuto così di istinto di mettere Ringo Starr che ci invita, che ci dice buonanotte, perché questa storia di Wen Jiabao è veramente strana, ma anche, come dire, questa svolta verso il demenziale di un fenomeno perfettamente legittimo come la protesta ci ha colto spiazzato. Dobbiamo trovare una posizione, magari ci aiutate voi. Noi intanto andiamo a spasso tra le notizie. 360 gradi News dai punti sensibili del pianeta. E chissà se anche Hu Jintao, che è il presidente cinese, collega di Wen Jiabao nel guidare la Cina in questi anni di inizio millennio, chissà se anche Hu Jintao avrà problemi con le scarpe nel suo prossimo tour in Africa e in Arabia Saudita tra pochi giorni. Infatti, no, la settimana prossima. Secondo me alla terza scarpa non li vediamo. Li arrestano più. Non li vediamo proprio più. Andranno con la Papa Mobile. Però sarebbe stato bello vedere Hu Jintao con lo scatto felino che ha avuto Bush quando ha schivato le due scarpe che gli sono arrivate in Iraq a dicembre. Insomma, Hu Jintao comunque sta per partire per l'Africa, che è una meta fissa per Hu Jintao da quando è presidente cinese dal 2003. Infatti sarà il quarto tour africano del capo di Stato cinese. Questa volta toccherà i seguenti stati: Mali, Senegal, Tanzania, l'isola Maurizio, che francamente non so dove si trova. Ma gli italiani non sognano altro che un weekend alle Maurizio. Chiedo venia. E poi si dirotterà verso il Medio Oriente, perché andrà in Arabia Saudita, anche questa direi visita strategica molto molto importante. Comunque, insomma, la Cina continua a mettere le mani nel bene e nel male sul continente cinese e africano. Dunque, un paio di notizie invece dal continente americano nord, quello che teniamo sempre al centro del nostro osservatorio, anzi proprio su Washington, la capitale, anzi proprio intorno alla Casa Bianca, perché sono andate a segno due nomine importanti che vanno a completare il mosaico dell'amministrazione Barack Obama, presidente 44. Confermata la nomina del senatore repubblicano del New Hampshire Judd Gregg al posto di ministro del commercio, quello per il quale Bill Richardson era stato a un certo punto scaricato per guai fiscali. C'è la quasi certezza che Greg però sarà sostituito in Senato da un compagno di partito. Ieri con Mario Protero avevamo affrontato questo così machiavellico trucchetto che poteva essere stato architettato dai democratici in realtà per togliere ai repubblicani il potere di filibuster, di fare opposizione, no, in Senato, ma invece tutto è stato risolto in modo piuttosto cavalleresco, per cui al posto di Greg non subentra, come si era paventato, un democratico che avrebbe fatto scattare il fattore numerico, bensì un repubblicano, e Greg può sedere tranquillamente senza pesi sulla coscienza al Ministero del Commercio. L'altra nomina importante invece che è stata vidimata è quella di Eric Holder a Attorney General, al Ministro della Giustizia. In sostanza un voto storico, così è stato giudicato da praticamente l'intera opinione pubblica americana, perché è la prima volta che un afroamericano in quest'anno di prime volte siede in questo ministero. Tra l'altro non è stata semplice la nomina. Holder ha avuto molta opposizione, è stato molto criticato per aver politicizzato alcune assunzioni di funzionari. Il Senato ha votato non all'unanimità, 75 a 21 per la conferma di Holder, ma è un fatto che Holder è al suo posto. Ci spostiamo adesso idealmente in Medio Oriente, che poi sarà il centro, il protagonista della prossima parte di Jefferson, con un ospite molto importante che ci ha già raggiunto negli studi milanesi. Certo. Giusto, Stefano? Benvenuto a Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera. Parliamo di Gaza, parliamo delle ultimissime notizie, ma anche dei suoi scritti delle ultime settimane. Io faccio una leggera virata sull'Iran, che ha annunciato oggi di avere messo in orbita il primo satellite interamente costruito in Iran, appunto, così come il primo missile che lo ha poi portato nello spazio. Il satellite si chiama Omid, che vuol dire speranza. Ahmadinejad, il presidente iraniano, ha subito negato ogni scopo militare all'operazione. In particolare i francesi invece sono molto scettici su questa ennesima iniziativa controversa, sicuramente, dell'Iran. Allora, abbiamo lanciato un tema, ve lo diciamo rapidamente, da parte di Jefferson 2 sulla bacheca. È stato lanciato il tema seguente: Lorenzo Cremonesi, tra i pochi inviati che hanno avuto il privilegio professionale di seguire i fatti di Gaza relativi alla temporanea occupazione israeliana direttamente dai luoghi. Una serie di suoi articoli hanno offerto una verità diversa relativa agli eventi da quella letta normalmente sulla stampa internazionale. Vi basti questa apertura di un suo articolo del 22 gennaio. Due punti: ci sono dubbi sul numero delle vittime, potrebbero essere 600, non 1300. Così i ragazzini di Hamas ci hanno utilizzato come bersagli, abitanti di Gaza accusavano i militanti islamici, ci impedivano di lasciare le case e da lì sparavano. Vi abbiamo chiesto quali reazioni provoca questa diversa lettura di un avvenimento grave e importante come l'attacco a Gaza, quale ruolo ha giocato e con quale qualità l'informazione in questo caso, e sono arrivate le vostre domande. Tra pochissimi istanti qui a Jefferson, adesso invece un bentornato che non c'entra niente, è personale, a Slim Shady, via! In them got gloves. Now where's the rubbers? Who got the rubbers? I noticed there's so many of them in this building. Now there many of us, and ladies love us. My boss is kicking up dust. It's on to the break of dawn, and we're starting this party from dust. Ladies and gentlemen, Dr. Dre. They see that low rider go by, they like, oh my. You ain't got to tell me why you're sick, cause I know why. I dip through in that six tray like Sick'em Dre. I'm an itch that they can't scratch, they sick of me. But hey, what else can I say? I love LA, cause over and above all, it's just another day. And this one begins where the last one ends. Pick up where we left off and get smashed again. Express yourself. Allora, prima di salutare Lorenzo Cremonesi che ci aspetta in studio a Milano, vi leggo qualcuno dei messaggi arrivati in relazione alla sua presenza, ma anche agli articoli che ha scritto nelle scorse settimane sul Corriere della Sera, direttamente dall'interno dei confini di Gaza, in alcuni casi correggendo almeno il mainstream delle notizie in circolo in quel momento. Dunque, scrive Paola Francesca, le notizie riferite dagli inviati sottolineano l'orrore di ogni guerra, di ogni estremismo, mettono sotto i fari il fallimento della nostra umanità. Dario, l'opinione pubblica è sempre costantemente manipolata, vedi rifiuti, sbarchi, clandestini, prospettive economiche, rating di aziende. La televisione da strumento di rappresentazione della realtà è diventato strumento di mistificazione e propaganda. Che cosa ci resta? Maurizio scrive, quali reazioni provoca una diversa lettura di un avvenimento come l'attacco a Gaza? A mio avviso nessuno, Hamas uguale terroristi, così si sono comportati i terroristi in passato, così sempre si comporteranno. Cesare, c'è un aspetto che non mi torna, cioè che vantaggio può avere Hamas nel lanciare razzi artigianali con scarso potere distruttivo se non quello di provocare una reazione israeliana che per forza deve essere sproporzionata? Doriano dice, e tanti con lui, finalmente una voce che ci racconta cosa ha effettivamente visto. Allora, alla voce e alla testa sopra la voce che ci racconta ciò che ha effettivamente visto, rivolgo il mio saluto. Buongiorno Lorenzo, benvenuto in trasmissione. Sì, buongiorno a tutti, anche ai nostri ascoltatori. Grazie. E Lorenzo Cremonesi, per chi non lo conosce, da tanti anni, credo una ventina, segue le vicende medio orientali, è stato corrispondente da Gerusalemme per il Corriere della Sera, ha lavorato anche in Iraq, ha seguito da vicino le vicende afghane e nelle ultime settimane è stato impegnato sul fronte di Gaza. E, Lorenzo, tanto per cominciare, prima di passare alla strettissima attualità, volevo appunto ripeterti, come già abbiamo fatto leggendo qualche messaggio tra quelli ricevuti, l'emozione ma anche il turbamento che i tuoi articoli, come probabilmente saprai, hanno provocato nel pubblico italiano, no? Capire che le cose non potrebbero stare come sembra quasi sicuramente che stiano, è una specie di sensazione, no, di smarrimento, di destabilizzazione, che dici? Ma guarda, io prima di tutto tutte queste cose le ho apprese tornando pochi giorni fa in Italia, perché quando ero a Gaza mi occupavo di quello che capitava a Gaza più che certo, delle reazioni in Italia, e devo dire, avendo avuto questa fortuna, anche bravura insomma, di riuscire a entrare a Gaza presto, sono stato praticamente il primo dei giornalisti occidentali, prima di me c'era stato un fotografo, mio amico Bruno Stevenson, che poi ha lavorato anche con me, ma insomma io sono entrato il 13 mattina se non erro a Gaza, quindi una settimana prima della fine della guerra, insomma, comunque dell'inizio del cessate il fuoco. Il mio sforzo è stato quello di dire quello che vedevo e l'ho sottolineato, cioè c'erano mille limiti, per esempio mi dicevano guarda che addirittura alcuni israeliani, alcune fonti israeliane confermano che è stato usato il fosforo, e io chiedevo per esempio, avevo trovato dei medici francesi all'ospedale Nasser di Khan Yunis e loro mi dicevano noi non lo possiamo dire, e io continuavo a dire non è che io dico che non è stato usato il fosforo, io dico che non ho prove provate, non ho vere concrete evidenze che il fosforo sia stato usato. E soprattutto mi impegnavo, l'ho anche avendo più spazio sul sito del Corriere, c'è stato più spazio anche per scriverne, ma di dire proprio quello che vedevo. Per esempio, tanti sono stati colpiti dal fatto che sia entrato con un autobus, un autobus scalcagnato. Una volta che gli egiziani mi lasciato passare, ho preso l'autobus, poi mi sono mosso solo con le ambulanze. Allora c'è chi vi ha letto: ah, allora Hamas usa le ambulanze. Questa cosa non la potevo dire in quel momento, ma mi è stata poi detta più avanti. È anche stato uno degli, se ho ben capito, uno degli elementi di scandalo. Per esempio, mi ha raccontato dei testimoni che non ho motivo di non credere, che quando vi fu l'attacco contro l'ospedale Al-Quds il 15 di gennaio nel centro di Gaza City, vi erano asserragliati dei miliziani di Hamas che sparavano missili, specialmente nella palazzina dell'amministrazione, che usavano le ambulanze. Mi dissero un particolare che mi colpiva, e cioè che avevano costretto gli ambulanzieri a togliersi le giacche con i simboli dei paramedici per confondersi, per fare in modo che i cecchini israeliani non li vedessero. E se posso aggiungere un'altra cosa che mi colpì e che mi condusse, la frase di un medico palestinese arrivando all'ospedale, si chiama European Hospital di Rafah, proprio la prima mezz'ora quando entrai nella striscia di Gaza, gli israeliani stavano bombardando proprio i tunnel, quindi a poche centinaia di metri da noi arrivavano i feriti, arrivavano i feriti del villaggio di Abassan. Ho visto davanti a me proprio morire tre giovani, eccetera. Ma un medico mi disse: ah, tu sei il primo giornalista occidentale che vedo arrivare qua, sei fortunato. Dico: perché? Perché oggi abbiamo tante vittime. E questa cosa mi colpì. Poi c'è stata tutta la polemica ancora adesso sul numero delle vittime, c'è chi mi cita ancora. Io ebbi l'impressione che non c'erano tutte quelle vittime. A posteriori, come ti stai comportando riguardo a questa storia che effettivamente, insomma, getta qualche preoccupazione, qualche incertezza, proprio anche sul lavoro stesso, nella sua complessità e molteplicità, per come è stato svolto, no, dalla stampa e dall'informazione più in genere. Insomma, se stavi dentro e dici delle cose che non contrastano con quelle che tanti che stavano però fuori hanno detto, accidenti, abbiamo un problema, come dire. Abbiamo un problema, ce l'ha anche un po' Israele. Infatti io scrissi una lettera sul quotidiano Ares che venne pubblicato, ne forse abbiamo parlato anche con voi, sì, certo, che venne pubblicata, certo, a gennaio, all'inizio di gennaio, prima di entrare a Gaza, in cui dicevo che era un autogol, perché di fatto eravamo un po' vittime della propaganda palestinese. Quello che qui gioco un po', voglio dire, sono 30 anni che mi occupo di Medio Oriente, mi ricordo ancora prima intifada. Attenzione, le vittime, da che mondo è mondo, da che guerra è guerra, e in Medio Oriente in modo particolare, sono sempre usate, ha aumentato i numeri, diminuiti a seconda delle parti, a seconda degli interessi. Non vedo perché si debba credere così ciecamente ai portavoce o addirittura al ministro della sanità di Hamas. Non vedo perché lui debba essere più pulito degli altri. Io mi ricordo Jenin, ci dissero perché 1500... Lorenzo, se ti interrompo, ma prego. Una cosa che sembra trapelare dalla passione, ma anche dal senso con cui scrivi i tuoi articoli, è che, con tutti gli inevitabili effetti collaterali, espressione spaventosa, ma quasi ogni gesto compiuto da Israele nell'attacco a Hamas era motivato da causa, era provocato, era l'effetto di una causa. Ma ecco, ho interpretato bene? Tu mi stai trascinando su un terreno molto, cioè è un terreno ovvio, è un tema delicatissimo. Io non dico ogni missile, io ho anche scritto che questa di Israele non è stata una battaglia contro Hamas. Hamas era un movimento proprio per il carattere di guerriglia, che si nascondeva tra la popolazione, che svaniva, che non aveva delle uniformi chiare, che prendeva le armi e le metteva da un'altra parte, quindi difficilissimo colpire Hamas. Qui c'è stata davvero una punizione collettiva, su questo io non ho dubbi, l'ho scritto sul sito, l'ho detto alle radio, l'ho scritto nei miei articoli. C'è stata una punizione collettiva, ma attenzione, non è che Israele ha sparato all'impazzata, come qualcuno ha detto. Io ho avuto evidenza che in quasi tutti gli incidenti più gravi, e li ho citati anche negli articoli, per esempio l'attacco contro l'ospedale Al-Quds, per esempio l'attacco contro il grande deposito dell'ONU nel centro di Gaza, contro molte delle scuole che fece lo scalpore nei giorni precedenti, qualcuno aveva sparato dei missili nei paraggi, addirittura dei palestinesi mi fecero vedere i luoghi da dove da dove spararono alcuni dei palazzi più alti, tra cui alcuni proprio vicinissimi al luogo, al deposito delle Nazioni Unite. Io qui non voglio, come dire, perdonare né essere dalla parte di nessuno. Ho cercato davvero, il grande vantaggio di essere giornalista in quel momento era dire: io vi dico quello che vedo, è a tutti i limiti, ma comunque è un valore grosso, è un valore importante. Un'altra cosa che mi colpì molto, se posso aggiungere, poi magari lasciamo, ma per esempio, io rimasi 5 notti o 4 notti a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, nel centro sud, più a nord di Rafah, ma insomma nel profondo di Gaza. E nella famiglia dove abitavo, che era una famiglia di gente simpaticissima, che mi accolse come un figlio, poi gli davo $50 al giorno per il cibo e per l'incomodo, ma insomma veramente mi trattavano come se fossi uno di loro. Quasi ogni notte, vicino alla nostra casa, che era proprio nella casba, proprio in mezzo a tante altre case in piccoli vicoli, una postazione di artiglieria pesante, andavano sul tetto gente di Hamas o comunque di milizie della guerriglia e sparavano contro gli aerei israeliani, creando il panico. La gente urlava per la strada: smettetela, non fatelo più. Poi quando io chiedevo: ma davvero non volete? Ah, non lo dire, perché sennò Hamas ci dà la caccia. Quindi c'era un'altra verità, come spesso avviene nelle zone di guerra. Ed eccoci, torniamo a parlare con Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera, della sua esperienza a Gaza, se abbiamo tempo anche di qualcos'altro. Molti messaggi, Lorenzo, arrivano, alcuni provano a presentare, a ricordare che c'era qualcun altro, altre voci parlanti dentro i confini di Gaza. C'è chi segnala un blogger che si chiama Vittorio Arrigoni, chi dice che c'era un dottore della Croce Rossa e un membro della ONG ISM che scriveva sul manifesto durante l'operazione. C'è come dire una politica italiana che mi sembra, Lorenzo, che abbia voglia di scontrarsi, di litigare, se mi passi la parola semplice, sull'idea di verità. Prima di tutto non pretendo di avere la verità, di esautorare, di esaurire tutto quello che è avvenuto. So che Arrigoni mi ha attaccato duramente, anche in modo molto offensivo, è un quotidiano della sinistra, lo ha pubblicato. Io trovo che potevano magari chiedermi un piccolo parere, visto che mi conoscono da tanto tempo, e insomma chi mi conosce sa che non sono di partito preso. Attenzione, io a questo punto rivendico il valore del giornalista e dell'esperienza del giornalista. Una volta che si entra a Gaza, ed è vero che sei a Gaza, questa è un'altra cosa che va detta, perché bisogna dire: io c'ero e firmavo dove ero e non pretendevo di essere dove non ero. Io vi raccontavo e mi ero proprio ho cercato di spogliarmi di quello che poteva arrivarmi dall'Italia, per esempio tutta la polemica sulle armi chimiche, eccetera. E chiedo: per favore, fidatevi del fatto che è 30 anni che mi occupo di questa guerra. A me è successo, adesso non voglio parlare di me, ma visto che si sta parlando di questa esperienza particolare, nel momento in cui sono entrato e ho raccontato finalmente anche sul Corriere, dove come tanti dei nostri quotidiani passava, per motivi ovvi, per lo più la versione israeliana, ho raccontato delle vittime, dei morti civili, ho citato dei medici francesi che dicevano: gli israeliani hanno colpito più che altro medici civili, questo è un massacro. Sono stato colpito io stesso, mi hanno sparato per 2 ore a Netzarim quando cercavo di passare da Khan Yunis verso la città di Gaza. Da quegli stessi blog che poi due giorni dopo mi attaccavano, ero portato a esempio: grande giornalismo, bravissimo, finalmente la verità, eccetera. 2 giorni dopo, quando cominciavo a portare delle voci un po' diverse, venivo accusato addirittura di essere embedded tra gli israeliani, guarda caso gli stessi che mi avevano sparato 2 giorni prima. Quindi basta leggere anche la storia di questi blog, di queste opinioni, per capire che insomma c'è un partito preso, c'è una pre-ideologia, c'è un punto di vista molto partecipato e molto particolare. Non era il mio, se non sulla base base di alcune esperienze. Insomma, mi sono visto parecchi, come ho detto, parecchi conflitti in Medio Oriente, e prendo tutte le fonti, e anche le fonti di parte araba, e soprattutto, certo, e soprattutto le fonti di parte araba, con grandissima cautela. Per esempio, la strage di Cana, mi ricordo, la strage, la seconda, perché ci fu la prima nel 96, il piccolo villaggio di Cana viene colpito ancora dagli israeliani nel 2006, la strage di fine luglio, ci dicono ci sono circa 70 morti, li abbiamo contati, io ne ho contati una ventina, dopodiché sono andato dal medico tre giorni dopo dell'ospedale di Tiro, e lui, un medico arabo tra l'altro, se non erro, di origine palestinese, e mi disse: guarda che sono 27. I conti sono diversi. Dopodiché la tragedia, ogni morto è troppo, quindi, e soprattutto, certo, se sono bambini, certo. E attenzione, io ci tengo a ripeterla questa cosa, perché quando mi hanno sparato ho anche capito che qui c'erano delle regole di ingaggio diverse, e il fatto che sparino a un civile che non ti risponde, quindi chiaramente non è un nemico per due ore, ti fa capire che l'ordine era: una volta, e anche questo va però una detto, volta dentro sei una volta dentro e una volta avvisato che devi andartene, perché gli israeliani generalmente facevano così, avvisavano prima: andate via, uscite da quest'area, eccetera, eri passibile di morte, cioè potevano spararti fino a... Lorenzo, hai visto questa agenzia di poco fa, secondo la quale un gruppo di attivisti giornalisti, tra cui alcuni italiani, tra cui lo stesso un Arrigoni, giornalista di Rai 3, sì, l'ho visto, Luppichini, sarebbe stato oggetto di fuoco, insistito fuoco da parte di soldati israeliani. La nostra presenza nella zona, avrebbe sottolineato, era stata segnalata alle autorità italiane. L'hai vista? L'ho vista, tra l'altro. È la conferma di quello che racconti, può succedere. L'ho visto, tra l'altro. Mi sembra che nello stesso gruppo ci sia ancora lo stesso Arrigoni, che mi sembra molto attivo su questa su questo fronte. Però io vorrei aggiungere, attenzione, adesso non, certo, so cosa è successo. È vero, però, confermo quello, ecco, che però un'altra cosa che mi colpì molto, vicino a casa mia, cioè a casa mia, alla casa dove stavo, il 15 di gennaio, veniva assassinato un importante leader di Fatah, cioè del gruppo opposto a Hamas, certo, da attivisti di Hamas, che addirittura gli toglievano gli occhi. E una domanda che feci: ma siamo in piena guerra, generalmente ci si unisce, anche se ci sono delle divergenze interne, ci si unisce, diventa un fronte unico. Eppure anche nel pieno della battaglia, nel pieno dei bombardamenti, Hamas aveva il tempo per dare la caccia, per perseguitare gli attivisti di Fatah. E questa cosa vedrete che crescerà. Già vedevo ieri il Guardian, aveva fatto un lungo pezzo su questa vicenda. Vedrete che anche sul numero delle vittime si riparlerà, vedrete che tutte queste questioni verranno a un certo punto a galla. Lorenzo, siamo in chiusura, delle 16.45 un'agenzia che dice che l'aviazione israeliana sta attuando raid lungo il confine Gaza-Egitto, volti a distruggere i tunnel sotterranei. Sì. Il ministro della difesa Barak ha confermato l'attività aerea, ma almeno un commento invece su quello che è naturalmente lo sfondo politico, da te lo vorrei, insomma. Ma Netanyahu avrebbe detto: rovesciare il regime di Hamas sarà la sua priorità se vince le elezioni in Israele, quelle del 10 febbraio. Ma direi... Visto che abbiamo pochissimo tempo, direi due punti. Sì. Il primo è che attenzione, tra pochissimi giorni, il 10, in Israele si vota, quindi le varie componenti dello spettro politico israeliano devono posizionarsi, cercano di guadagnare punti e voti fino all'ultimo minuto. Olmert fa la voce grossa, cerca di guadagnare voti a destra, eccetera. Barak invece guarda più a sinistra, il ministro della difesa. Direi che tutte queste vicende adesso vanno lette davvero in chiave elettorale interna in Israele. E questa è la prima considerazione. La seconda è molto più ampia. Il mondo sta cambiando. Guardiamo cosa Barack Obama ha detto e fatto negli ultimi giorni, da quando è stato eletto presidente. Non a caso Israele ha terminato le operazioni pesanti militari prima del 20, quando Barack Obama si è insediato. E Obama, io sono abbastanza convinto, a un certo punto, non ci metterà un mese, due, tre, sei, parlerà a Hamas. Io penso che sia inevitabile. A un certo punto con Hamas bisognerà parlare. Grazie Lorenzo, grazie del tuo lavoro, grazie anche della tua disponibilità di essere venuto qua. Tante cose ci piacerebbe chiederlo, magari in una prossima occasione. Lorenzo Cremonese del Corriere della Sera. grazie anche a voi tutti che avete partecipato al dibattito, che naturalmente è ancora vivo e vivace sui nostri siti Facebook. Una piccola deviazione, me la consentite? Beh, mi autorizzo. Kobe Bryant ne ha fatti 61 al Madison Square Garden e noi, come dire, un asterisco ce lo volevamo mettere perché c'è stata questa memorabile sfida, no? Più America di questo, Los Angeles contro New York. C'è una canzone che dice no, odio Los Angeles, amo New York. 126-117, i Lakers hanno messo sotto dei grandi Knicks, dove un ragazzo italiano che si chiama Danilo Gallinari ne ha fatto 10 e sta ormai sulle pagine dei giornali americani in bella posa. Pare che la serata sia stata memorabile. Noi, come al solito, guardiamo di lontano, così sospiriamo. Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia Roma, Valerio Rocchetti, Milano, Pietro Lacorte, la mail Jefferson2 è tra24.it su Facebook, se volete parlare con noi, redazione Jefferson2, scritto in parola il 2, eh. Se volete dibattere con noi e con voi stessi, esprimetevi, express yourself, Jefferson2, Radio 24, express yourself, la replica alle 24, la diretta alle 4 domani, sempre su Radio 24, ci sentiamo.